Ma innanzitutto non è un vero e proprio spettacolo, ma un qualche una lettura a vista, intravista, ben vista e sicuramente anche intervista, e poi capirete perché. Cioè, festeggiamo qualche cosa, è difficile in questo momento festeggiare qualche cosa, ci proviamo. 200 anni, sono dal 91, perché la paura fa 90, ma per me il 91 fa la gioia, sono dal 91 al Teatro Duse. E tutte queste volte formano un grandissimo portico che porta da un autore a un altro fino ai giorni nostri, anzi fino ai vostri, perché io non ci sono più. Però mi fa molto piacere poter festeggiare. Io non amo le ricorrenze, non amo gli anniversari, però qui ce la giochiamo in maniera proprio anche, come mi piace dire, da meduse. Meduse è un argomento che mi interessa molto. Le meduse sono anche immortali, se andate a vedere scientificamente che cos'è una medusa. E poi mi piace proprio dire di poter stare col mio pubblico a sorpresa, perché non è uno spettacolo nuovo che arriverà nel 2024, non ha un titolo perché non siamo titolati a farlo, e c'è un bisogno di raccontare a 370 gradi che cosa vedo io, che cosa penso io, e per poter collegare, per poter unire. La sera prima sarò alla Rai 3 Radio per una cosa sulle radici, sul tema della terra, sul tema delle alluvioni, eccetera. Siamo stati in questi giorni, saremo ancora con le manifestazioni per la pace, quindi devo dire è ormai tutto è estremamente collegato. Come dico io, congiungivite, che non è una malattia, ma è semplicemente, anzi, un qualche cosa di contagioso che dovrebbe far vedere molto più avanti. Ormai nulla è slegato, il teatro non è slegato dalla piazza, la piazza non è slegata dalla pazzia, la pazzia non è slegata dalla politica, la politica non è slegata dai bambini, i bambini non sono slegati dalle madri, e io sono madre.